passeranno questi giorni senza il rischio di un ritorno. Il biglietto anticipato, un'idea per la tua vita, questa sei, ma è stata mia. Il mio cuore si è già reso, senza me è già partito. Le mie ali le ho piegate, il tuo cielo è ormai finito. Questa sei, ma è stata mia. Il tuo mondo torna a posto, siamo noi cuori diversi. Tu volevi un po' volare, ma per terra vuoi restare. Tornerò al mio destino, lascio a te le somme e i conti. Quando poi mi avrai sommato, io ti avrò dimenticato. Sogni che mai più potrai sognare, e volerò, scorderò. Dai tuoi passi sull'asfalto volerò per nuovi cieli, volerò senza te. Un amore a due ali, uno solo non può amare. Troverò chi ci sta. Amore immaginario, solo io ho pagato il conto dei diavoli di questa storia. Ho pagato senza sconto, questa sei, ma è stata mia. Di quel tempo di incertezze sono stato il condottiero, ma per te solo un soldato del tuo amore programmato. Sullo schermo andrai a cercare altro cuore da sfamare. Proporrai il cielo e il mare, ma tu in fondo non sai amare. Volerò in tutti i sogni che mai più potrai sognare, e volerò, scorderò. Dai tuoi passi sull'asfalto volerò per nuovi cieli, volerò senza te. Un amore a due ali, uno solo non può amare. Troverò chi ci sta.